Scrivono i giornalisti della Federazione Nazionale della Stampa che quella che è avvenuta al centro stampa del Genoa Social Forum è stata una drammatica aggressione, un blitz indiscriminato dalle caratteristiche violente e sproporzionate rispetto all'obiettivo dichiarato. Il giornalista Lorenzo Guadagnucci, del Resto del Carlino, si trova ricoverato in ospedale con entrambe le braccia rotte. Io stavo dormendo, svegliato perché ho sentito il rumore delle urla, un grande trambusto veniva dalla zona della porta. Mi sono messo gli occhiali, mi sono rimesso i pantaloni che mi ero sfilato. Sono venuti nella zona dove ero io, prima un poliziotto che ha colpito con un calcio una ragazza che era vicino a me, a 2 metri da me, sulla guancia sinistra. E poi sono arrivati 2 poliziotti e si sono rivolti verso di me, mi hanno preso a manganellate. Sono coperto la testa con le braccia e anche cercando di proteggermi con i piedi. Ho avuto sul braccio una ferita, all'inizio sembrava che fosse rotto perché era piuttosto non larga ma profonda, mi hanno detto dopo gli infermieri che si vedeva l'osso. Radio Popolare in collegamento con Genova, Silvio Berlusconi ha appena cominciato la sua conferenza stampa, linea subito a Lele Liguori. Zona marittima di Genova, la considerazione che esprime la soddisfazione, la felicità e in un certo qual modo anche la sorpresa di trovare seduti allo stesso tavolo i rappresentanti di paesi come gli Stati Uniti e dall'altra parte il Giappone, 60 anni dopo Pearl Harbor e Hiroshima. E l'unico sistema di cui oggi il mondo dispone per aumentare il benessere è il sistema del libero mercato. Questo è il sentimento che dovrebbe essere comunicato ai cittadini del mondo. Ci ricollegheremo eventualmente con l'inviato Lele Liguori se Silvio Berlusconi dirà qualcosa per noi più interessante. Sono le 11:39 minuti. Riprenderei, se Genova è d'accordo, con gli ascoltatori. Pronto? Mi chiamo Fabio. Ho ricevuto un messaggio chiarissimo. Hanno dapprima eliminato tutto quanto quelle che sono gli accordi europei per la libera circolazione delle persone e delle cose. Hanno eliminato il nostro diritto a manifestare, hanno eliminato uno di noi, hanno dato risalto solo ai violenti nelle immagini in televisione, hanno concesso briciole per armarsi agli stati poveri, hanno infiltrato falsi black bloc, elicotteri che scendevano a 20-30 metri d'altezza per spararmi a me addosso dei lacrimogeni. La mia ragazza è stata colpita in pieno da un lacrimogeno. Con la pacificazione non si ottiene assolutamente nulla. Ieri è stato un assoluto insuccesso, non un successo. Pacifismo e non violenza non sono la stessa cosa, ricordiamocelo. Io sono pacifista, ma a questo punto non mi posso più permettere di essere non violento. Mi hanno attaccato personalmente, a me e alla mia famiglia. Non ho nessuna intenzione di non reagire a una situazione di clienti. Popolare. Sì. Senti, io ti voglio dire una cosa. Io abito in zona gialla. È da un mese che c'è la polizia che viene e erano già padroni della situazione. La situazione era già pesante, sembrava di essere un clima da Sud America. Avantieri hanno le tute nere hanno attaccato Marassi, il carcere di Marassi. Poi io ero a Manin. Le tute nere sono arrivate a Manin. Dal carcere arrivare a Manin c'è una scalinata che la conosce solo i genovesi e quelli che vanno, serve per andare a tagliare la strada per andare allo stadio. Quelli lì praticamente sapevano che strada fare da Marassi a salire in Alta Manin. Ascolta Genova, questa manifestazione posta come questione di ordine pubblico segna una svolta nella gestione appunto della vita pubblica, nel senso che tutto diventa una questione di ordine pubblico. Ieri mattina io ho visto delle persone pseudo black bloc che sono arrivate con telecamere, sfondavano vetrine già sfondate il giorno precedente con delle mazze tutte uguali. Questo mentre il black bloc in piazza Rossetti cercava di tenersi piazza Rossetti, queste persone sono state affrontate da quelli che correvano indietro al termine degli scontri, gli hanno detto voi siete poliziotti, fateci vedere il tesserino, così si sono messi a ridere e sono andati via.